È venerdì 21 novembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su industria europea in stallo, banche sotto tiro in borsa, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera così cambierà la manovra, canone Rai in bolletta, sembra che ci siamo nella legge di stabilità. Il Messaggero, piano INPS, in pensione prima. Mentre La Stampa, insieme ad altri giornali, torna proprio sull'Eternit. Attacco alla Cassazione, questo è il titolo della Stampa. Repubblica, Eternit inchiesta per omicidio, Renzi dice cambiare la prescrizione. Mentre il Fatto Quotidiano, prescrizione infamia di Stato. Libero invece, Renzi dà 40 euro al mese agli extracomunitari e l'estensione della social card agli immigrati. Il Giornale invece titola in prima pagina il buco segreto di Renzi, 20 miliardi, gli interessi di mora sul debito della pubblica amministrazione sono fuori dal bilancio e stanno finendo nelle mani degli speculatori. Mentre l'apertura del quotidiano Avvenire è dedicata a Francesco, il Papa, ovviamente, il cibo c'è, la terra va custodita. Ma voglio partire da che cosa? Proprio il caso Eternit, ancora oggi ci sono tanti articoli, dopo la prescrizione per il reato di disastro ambientale, ora la procura però attacca sul fronte omicidi, verranno contestati agli smidani, cioè gli ex proprietari dell'Eternit, 256 omicidi avvenuti tra il 1976 e il 1986. Conta molto, come scrive il Corriere della Sera a pagina 2, la contestazione delle aggravanti che, se accolte, porterebbero in via ipotetica la pena dell'ergastolo, cioè l'aver agito con mezzo insidioso. È senz'altro questa una definizione inedita del terribile polverino, senza aver informato la cittadinanza dei rischi che correva. Agendo, insomma, con coscienza e volontà, gli smidani cagionavano la morte di 256 tra lavoratori operanti presso gli stabilimenti, familiari degli stessi, cittadini residenti delle zone limitrofe. Secondo la nuova accusa della procura, gli smidani furono consapevoli del fatto che il mesotelioma è una patologia nella prognosi infausta correlata all'amianto e che le sedi italiane di Eternit presentavano condizioni di polverosità enormemente nocive e le risorse finanziarie investite erano esigue. Questo ovviamente sarà l'atto d'accusa che porterà la procura a chiedere il nuovo processo per 256 decessi. Ora, come andrà a finire, questo lo si scoprirà. Secondo molti è un tentativo estremo. La verità, i rumors anche all'interno della Cassazione, come raccontano i giornali, off the records, magistrati della Cassazione dicono questo processo è stato sbagliato fin dall'inizio, è stato impostato male per un reato che era prescritto in pratica dal primo grado di giudizio. E le polemiche, Renzi promette cambieremo la prescrizione, anche se Liana Milella su Repubblica pagina 4 racconta un retroscena dicendo pare di cattivo gusto dirlo, ma ci voleva un caso eclatante come quello dell'Eternit per stanare il governo sulla prescrizione, visto che dormiva da 90 giorni nei cassetti di Palazzo Chigi il disegno di legge annunciato il 30 luglio, giugno, approvato il 29 agosto e poi missing, cioè scomparso, tant'è che neppure Renzi di buon mattino pare ricordarselo. È il decreto che vuole ridurre, appunto, cioè che vuole cambiare la prescrizione. Però si vuole cambiare, ma sta di fatto che questo dopo lo shock della sentenza Eternit. Racconta Piercamillo Davigo, magistrato, in una pagina del Fatto Quotidiano, scappare dal processo è una specialità tutta italiana. Mette i vari modelli a confronto. Negli Stati Uniti, dove è fissata 5 anni, la prescrizione cessa di decorrere dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Ecco come funziona negli altri paesi del mondo, scrive Davigo. Solo da noi c'è questa possibilità di scappare dal processo. Questo a pagina 3. Mentre si difende in un'intervista alla Stampa Alberto Oggè. Chi è Alberto Oggè, direte voi? È il presidente della Corte d'Appello che invece aveva condannato gli smidani in appello, appunto, a 18 anni. Il reato non è estinto, la nostra sentenza Forse abbiamo solo precorso i tempi, sarà in futuro giudicata giuridicamente corretta, sta di fatto che però è stata totalmente cassata appunto dalla Cassazione. E c'è il racconto delle vittime, c'è lo sdegno delle vittime ancora che oggi riempie le pagine dei giornali. Il dato di fatto è che sembra proprio una vergogna abbastanza indicibile. Veniamo ad altre cose. Come ho detto, è l'81esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, che è finita così con un nulla di fatto, anche se ci dicono che le province sono abolite. Ma a pagina 3 Libero racconta in maniera molto chiara con Sandro Giacometti che cosa: se le province sono abolite, perché continuiamo a pagare nell'RC Auto la tassa per le province? È un quesito abbastanza, un dilemma irrisolvibile. Forse si risolve col fatto che le province sono vive e vegete. Nella RC Auto la tassa per le province abolite, altro che cancellazione, racconta Libero. I vecchi enti continuano a succhiarci soldi. Le imposte sulla polizza per le vetture, obbligatoria, vanno ancora in gran parte a loro e nelle loro casse finiranno, cioè nelle province, 2 miliardi e 300 milioni quest'anno. La tassa dall'RC Auto. Pagina 3 di Libero. A proposito di tasse, o meglio a proposito di costi, oggi Sergio Rizzo torna sugli annosi costi della metro C a Roma. Lo fa perché racconta in prima pagina del Corriere della Sera il capo dell'anticorruzione Raffaele Cantone ha fatto un dossier urticante di 39 pagine scrivendo come non si salvi nessuno, non si salva il comune né le sue società, la Roma metropolitana alla quale era stato affidato il compito di gestire quello che poi si è rivelato l'enorme pasticcio della nuova linea C. Costi promessi 3 miliardi 47 milioni, siamo già a 3 miliardi e 739 milioni, ovvero 692 in più del prezzo di aggiudicazione dell'appalto e senza che sia stata ancora messo mano al tratto che attraversa il cuore antico di Roma. Ritardi, costi lievitati di 700 milioni, eccola qui la metropolitana più cara del mondo. Rapporto di Raffaele Cantone sui lavori della linea C sotterranea di Roma, pagina 25 del Corriere della Sera, dopo che inizia in prima pagina gli ennesimi costi di un'opera che non è mai, mai, mai un costo in regola, diciamo. Prima del premio Mani sul Volante voglio fare un omaggio a una persona che è scomparsa a 88 anni ed è la persona che era più cara a Elisabetta Fusconi qui in redazione da noi. Si tratta della, come si chiama, la nobildonna più blasonata del mondo. Mi sono perso tutte le pagine. Ma dove cavolo è la donna, la nobildonna più blasonata del mondo? Eccola qua, adios alla duchessa d'Alba, la donna più nobile del mondo. 88 anni, aveva 43 titoli. Come era anche, come scrive il giornale, effettivamente la donna più rifatta del mondo. Se avete presente la foto della duchessa d'Alba, se non sapete come si chiama, va! Ve lo racconta Mattia Feltri oggi in Paesi e Buoi, pagina 15 della Stampa. Donia Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz James Stuart De Silva Falcoi Gurtubai è morta, 88 anni, era duchessa di 7 posti, marchesa di 19 posti, contessa di 23 posti, contessa duchessa di Olivares, viscontessa di La Calzada, baronessa di Bosworma. Come scrive Feltri, a parte la longevità, sembra la storia di Scelta Civica. Vabbè, comunque è morta a 88 anni e trovate pagine ovunque su di lei. Amori giovani, tanto Botox, scrive il giornale, e titoli a gogo. Ma il premio, Mani sul Volante, io non ci volevo credere. Non ci volevo credere. Ma succede, a Vigevano. Lo racconta La Stampa, pagina 19. Il premio Mani sul Volante per l'articolo che ci fa più incazzare questa giornata. Un barista espone sul marciapiede fuori dal locale una ciotola per cani. I vigili arrivano dopo mesi e gli fanno una multa per Occupazione di suolo pubblico. Fabio Poletti, il monolite dello scandalo. Come da verbale della solerta vigilessa di Vigevano con fischietto d'acciaio e senso del rigore è la struttura a base circolare, 30 cm di diametro, 30 cm di altezza, con bacinella contenente acqua. Per i titolari del bar Grecale in corso Vittorio Emanuele era una ciotola per abbeverare i cani fuori dal loro locale. Passa la vigilessa. 168 euro di multa! Al barista la multa, il sindaco, che è il responsabile dei vigili, si arrabbia e fa una colletta per pagare la multa. 168 euro perché uno ha messo una ciotola per abbeverare dei poveri cani fuori sul marciapiede, come direbbe Oscar Giannino. Rodri! Alessandro Milan, l'esorcista dell'informazione italiana. L'esorcista, questa mi mancava, caro ascoltatore, mando un abbraccio. Allora, ieri Renzi era in Emilia Romagna, è stato anche una giornata nella sede della Barilla e c'è da dire che ci sono state delle contestazioni che ormai lo accompagnano da dove va, ma lui, come racconta Repubblica in un retroscena, ha messo in piedi questa strategia, e cioè dovunque io andrò mi prendo i fischi e vado avanti. Questo è il titolo di pagina 2 e 3 di Repubblica, ormai ha lanciato questo refrain: mi lanciano le uova, ci faremo le crepe, che mi piacciono molto. Comunque, Renzi in Emilia, tra accuse ai sindacati e proteste, questo è il titolo anche di pagina 6, racconto e la cronistoria di una giornata di Renzi che dovunque va è certamente accompagnato da alcuni contestatori. Piazze calde, racconta il Corriere della Sera, parole grosse. Il giorno dopo l'annuncio dello sciopero generale di CGIL e UIL scorrono veleni tra Renzi e i sindacati. L'arrivo del premier mette benzina, anche troppa, alla sonnacchiosa vigilia elettorale dell'Emilia Romagna. Tra l'altro Renzi aveva detto questa frase che suona così: i sindacati scioperano mentre io creo posti di lavoro. È una frase molto dura, molto netta, che acuisce lo scontro, che neanche a Repubblica piace molto. Parole sbagliate, questo è il titolo di un corsivo in prima pagina di Repubblica, nella quale si legge: un conflitto sull'articolo 18 è comprensibile, era anche prevedibile, ma il linguaggio con cui il Presidente del Consiglio tratta la CGIL è molto meno comprensibile. È vero che Susanna Camusso lo considera un personaggio dell'Ottocento, subalterno ai padroni, abusivo a sinistra, ma il Premier dileggia il sindacato, banalizza le ragioni della protesta, svaluta con lo sciopero una storia legata alla conquista e alla difesa di diritti che, tutelando i più deboli, contribuiscono alla cifra complessiva della democrazia. La domanda è la stessa, chiede Repubblica. Che idea ha il segretario del PD della sinistra che guida? Un partito che voglia parlare all'intera nazione deve ospitare culture diverse al suo interno e tocca al leader garantire loro spazio e legittimità. Camusso, sapendo che prima o poi si voterà e i suoi avversari non saranno Camusso e Landini, ma Berlusconi e Verdini, quando se ne accorgerà? Ecco, queste sono una ventina di righe che in prima pagina di Repubblica, non firmate tra l'altro, quindi si possono, come dire, ascrivere alla direzione di Repubblica, vengono messe in prima pagina criticando il modo in cui Renzi attacca la CGIL. Una cosa che però ha fatto infiammare anche un po' il dibattito politico è questa. Renzi, e si è deciso in legge di stabilità, allargherà la platea di coloro che hanno diritto alla social card. Ricordate la social card, cioè quella carta che viene caricata per gli indigenti, 80 euro al mese con soldi del Ministero del Tesoro. Allargata la platea agli immigrati. Social card agli immigrati, protestano nuovo centrodestra e Lega. Questo è il titolo, per esempio, della Stampa, pagina 8. Alessandro Barbera racconta: in attesa di spedire una nuova lettera di impegni sulle riforme della Commissione europea, il governo concede alla sua maggioranza qualche modifica alla legge di stabilità. Una di queste è l'emendamento che conferma la sperimentazione della social card a favore dei cittadini extracomunitari in regola nelle 12 grandi città con più di 250.000 abitanti. abitanti. Ovviamente la Lega dice no, ma anche il nuovo centrodestra dice no, e il nuovo centrodestra è alleato di governo di Renzi. Il titolo di Libero di prima pagina è: Renzi dà 40 euro al mese agli extracomunitari, regalo a Salvini, da soldi agli immigrati. Mentre, attenzione, ne abbiamo parlato, il canone Rai in bolletta, forse arriva proprio con un emendamento nella legge di stabilità, quindi forse ci siamo. Il governo, il canone sarà in bolletta, pagina 5 del Messaggero, la novità in un emendamento presentato alla legge di stabilità. Il canone Rai nella bolletta elettrica e con parte delle maggiori entrate sostenere TV e radio locali. Questo è il progetto che è stato anticipato qualche giorno fa dal Messaggero, a cui il governo lavora. Lo ha confermato anche ieri il vice ministro dell'economia Morando in commissione bilancio della Camera nella discussione sulla legge di stabilità. E cioè, la linea è quella: mettiamolo in bolletta, così l'evasione sarà impossibile o comunque molto difficile, e pagando tutti il canone si può pagare un po' meno. Lo so che su questo mi fanno tutti, mi danno da c'è chi mi ha dato dello zerbino dello Stato, di chi prono a pagare. Io non ho capito una cosa: perché io debba pagare 113 euro mentre tutti coloro che lo evadono e pagano zero, e che c'ho scritto coglione io sulla fronte? Rispondete a questa domanda, datemi pure del coglione, va bene, però il dato di fatto è questo. E allora io sono il primo a dire che il canone della Rai va riformato, se volete va anche tolto, ma finché c'è, perché io, virgola, coglione, virgola, lo pago e Pinco Pallino no? Ecco, faccio questa banale domanda. Il canone TV in bolletta dimezzato, questo è il titolo del Corriere, fondi pensione tasse più leggere, cioè si studia questa idea. Tra l'altro sulla Rai c'è la nuova anche governance, tutta la nuova, il nuovo dibattito, ne abbiamo parlato anche con il presidente della Commissione Vigilanza Rai Fico. Oggi avremo il consigliere della Rai Antonio Verro, colui che ha proposto questo ordine del giorno che poi è stato votato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, che si è spaccato. Luisa Todini si è dimessa, il direttore generale della Rai Gubitosi ha detto è una vergogna che si sia fatto ricorso contro il governo, dunque contro l'azionista della Rai, perché sapete che il governo ha chiesto 150 milioni di sacrificio, così, dal canone per contribuire anche alla Rai. Gubitosi dice un consigliere non può votare contro il suo azionista, se è in disaccordo si dimetta. Verro tiene il punto, e anche i consiglieri cosiddetti vicini alla sinistra, cioè Benedetta Tobagi, che oggi viene intervistata da Repubblica a pagina 15, ma anche Gherardo Colombo, che viene intervistato credo sul Corriere, dicono no, noi abbiamo difeso questa linea. Benedetta Tobagi accusa la presidente della RAI Tarantola, definendola pavida in questa intervista Repubblica. Insomma, è un gran casino anche in RAI, sta di fatto che ecco a voi un altro che come me paga il canone RAI. E dunque, per similitudine, caro Mauro Meazza, ecco a voi Mauro Meazza, appunto. Buongiorno. Buongiorno, no, finisci pure. Buongiorno Alessandro. No, no, ma ho capito qual no, era ma, l'epiteto. No, ma è un epiteto, come dire, per dirci che siamo forse noi più o no? Certo, i fresconi che pagano il canone. Sì, no, ho capito, va bene. Guarda, io tanto stavo in tutt'altre faccende affaccendato, come si dice, perché stavo leggendo sul Sole 24 Ore. Tra le altre cose, ci sono un po' di ritardi sui pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Sai, quello che dovrebbe poi fare il pellegrinaggio, vabbè, niente. Lasciamo stare. Sei un polemico. No, io mi ricordo solo, mi ha colpito tantissimo questa cosa, questo momento sportivo della politica, nel senso della camminata, eccetera. Vedo che appunto c'è preoccupazione da parte nostra, sincera preoccupazione, perché le certificazioni dei crediti vantati dalle imprese vanno un po' a rilento. Però lo stavo leggendo nelle pagine di Imprese e Territori oggi che stavo sfogliando. Poi oggi ho diverse cose da leggere, anche parecchio importanti, e una critica, anzi un'accusa da muoverti, ma lo diremo più tardi. Innanzitutto sappi che oggi con il Sole 24 Ore c'è How to Spend It, certo, quindi ti i tuoi 2 euro. Santa pazienza, cacciamoli sti 2 euro, tanto il canone già l'hai pagato, perché sei un frescone. Quindi, esatto, e allora se visto che ti sono avanzati questi 2 euro, spendili, noi ti diamo oggi How to Spend It. Stavo poi scoprendo, leggendo Roberto Turno, che io non lo sapevo, ma medici, infermieri, insomma tutto il comparto della sanità, gli stipendi sono diversi da regione a regione, ma anche parecchio diversi, cioè di diversi punti percentuali, anche oscillazioni a 2 cifre, perché ci sono le parti variabili, come dire, della retribuzione. Allora in qualche modo le regioni differenziano la loro, gli stipendi del settore. Non, è una cosa che mi ha un po' sorpreso, perché sai, si parla adesso di ulteriori tagli con la legge di stabilità, e si cerca anche di capire dov'è che potrebbero naturalmente esserci degli sprechi, ma qua nessuno è frescone, caro. Ecco, ma non ho capito l'accusa nei miei confronti. No, beh, adesso arriva. Intanto ti voglio dire, riferiamo anche dei sacchetti quasi ecologici per la spesa, e ne parliamo ancora nelle pagine Imprese e Territori. Oggi ho trovato tanti spunti in queste pagine sul Sole 24 Ore, perché appunto qualche catena di grande distribuzione dà dei sacchetti quasi biodegradabili, quasi. Però non, allora l'antitrust vorrebbe capire il senso di quell'avverbio, che potrebbe essere imbarazzante. Poi invece adesso ho capito tutta la tua reticenza, e qui vengo all'accusa nei confronti della partita che si svolgerà in questo fine settimana. Perché c'è un articolo sui conti dell'Inter, sul Sole 24 Ore oggi nelle pagine di finanza, che è molto pesante, perché insomma rivela che la società che io amo ha dei debiti, e questo è un vile agguato da parte tua. Io so che tu hai tramato per far pubblicare questo articolo. Pagherete tutto con 3 punti la lasciare sul campo domenica. Allora guarda, io so che tu hai tramato per questo, ma guarda, la nostra vendetta sarà consumata nel luogo più acconcio, o almeno così ci auguriamo. Sto facendo degli scongiuri pazzeschi in questo momento mentre dico questa frase. Ho finito, caro Alessandro, passa una buona domenica. Anche ti faccio tanti cari auguri per augurissimi, la augurissimi. Auguri anche a te. Auguri. Traffico. Alessandro Milan, il giornalista più titolato del mondo. Peter, ci stiamo un po' troppo sbilanciando. Guarda che torneremo con le corna rotte lunedì mattina. Tanti auguri comunque all'Inter per la partita di domenica. Non so con chi giocheranno, ma augurissimi. Ovviamente, visto che c'è un nuovo allenatore, auguri, auguri, auguri, auguri. Allora, torniamo alle vicende di cronaca, e raccontano i giornali delle nuove vicissitudini del deputato del PD Marco Di Stefano, che è indagato per corruzione, e racconta il Corriere della Sera, come anche Repubblica. Sto leggendo però il Corriere Fiorenza Sarzanini, pagina 23, i soldi trovati in 2 conti occulti in Svizzera. Questo avrebbero trovato i magistrati, soldi a Ginevra portati scortato dai poliziotti ex colleghi, perché questo deputato è stato anche poliziotto. Soldi nascosti in valigette portati in Svizzera, depositati su 2 conti presso la UBS di Ginevra. Centinaia di migliaia di euro occultati da Marco Di Stefano, deputato del PD accusato di aver preso tangenti in cambio di appalti quando era assessore alla Regione Lazio tra il 2008 e il 2009. Questi sono gli ultimi sviluppi anche per Repubblica. Spuntano i conti super segreti del DEM di Stefano. Staremo ovviamente a vedere. Mentre parla su Libero Gianluca Salviato. Chi è Gianluca Salviato? È colui che è stato 8 mesi prigioniero in Libia coi Tagliagole, questo è il titolo di Libero dell'ISIS. In realtà non sono proprio l'ISIS in Libia. I miei 8 mesi con i tagliagole vogliono islamizzare l'Italia. Racconta, mi stavano facendo vedere un filmato della Jihad. A un certo punto uno di loro mi chiese: tu sei musulmano? Io ho detto no, sono cristiano. Mi ha guardato fisso e mi ha detto in italiano: io voglio un'Italia tutto Islam. Così racconta Gianluca Salviato, 48 anni, di Mestre, che per 8 mesi è stato ostaggio di una dozzina di rapitori in Libia. Racconta, ci stanno provando, militarmente sono molto organizzati. Si definivano i miei rapitori i Mujahideen per la Jihad islamica. Erano giovani, sui 30-35 anni, io capivo un po' di arabo, ma parlavano un dialetto per lo più incomprensibile a me. Alla domanda è stato pagato un riscatto, risponde: questo io non lo so, ma è ovvio che sia stato pagato un riscatto, questo lo diciamo noi per certezza, tanto che racconta, nel momento della liberazione ero seduto in camera nel comodino, nello stanzino dove ero rinchiuso, ero seduto sul comodino quando a un certo punto ho sentito un'esultanza e sono arrivati e mi hanno detto: yalla yalla, vai Luca, sei libero. Ecco appunto l'esultanza, chissà perché, probabilmente perché qualcuno aveva dato il via libera a pagare il riscatto. Comunque racconta su Libero i suoi 8 mesi con i tagliagole e la minaccia, vogliono islamizzare l'Islam. Rimango però su Libero perché c'è una notizia interessante che riguarda tutti coloro che si separano, insomma, è una sentenza, come racconta Matteo Mion a pagina 14, una sentenza che proviene da Catania. È la prima pronuncia giudiziale in Italia che afferma l'obbligo sussidiario degli ascendenti di mantenere i nipotini. Tradotto vuol dire questo: una sentenza di Catania stabilisce se l'ex marito non paga gli alimenti, tocca al suocero, tocca al papà dell'ex marito pagare i soldi per mantenere i nipoti. Cari nonni, con tutto quello che già fate, che siete il vero welfare sociale del paese, un paese con un welfare disastrato, magari vi toccherà pure mettere mano alle vostre pensioni, in alcuni casi misere, per cercare di sopperire alla mancanza se i vostri figli non pagano gli alimenti alla ex moglie. Non bastavano mancette e coccole, scrive Libero, da oggi i padri dei padri diventano di fatto genitore 3 e 4. Un vero colpo basso per i nonni che non potranno più godersi la meritata pensione. Così Matteo Mion a pagina 14 di Libero. Siamo quasi in conclusione? Chi lo sa, intanto vi segnalo che c'è un'intervista a Emilio Fede, un'intervista un po' struggente sul Corriere della Sera, racconta, pagina 20, intervistato da Maria Volpe, chi sono i suoi amici? Sentite la prima domanda, chi sono i suoi amici oggi, Emilio Fede? I ricordi. Ecco, già all'inizio così fa capire che si piomba nella più cupa disperazione. Nel corso dell'intervista: mi hanno licenziato da Mediaset con una mail, io non ho mai voluto tradire Berlusconi ma non lo sento più, l'ultimo capodanno e anche a Pasquetta ero da lui, parlavo anche con Francesca Pascale, poi sono cominciati i casini, lui pensa che io possa averlo tradito ma non è vero niente e lo dimostrerò, mi mancano le chiacchierate con Silvio, mi mancano le chiacchierate con Fedele, con Falonieri. Anche lui sta scrivendo un libro con una piccola casa editrice di Napoli. Il titolo del libro di Fede: io c'ero, voi no. Dove? Boh, no, questo sottotitolo no, me lo sono inventato io. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince La Stampa, che dedica uno straordinario quarto di pagina a che cosa? Con Piero Negri a Lemmili. Che cavolo è? Lemmili in vendita per Natale, la bambola bella come la realtà, a dimensioni medie, che rispecchia le misure medie delle vere 19enni americane, con un kit di 38 adesivi, dotato di cellulite in adesivo, brufoli, cicatrici, sbagliature. Ma chi se ne frega!